Salirò, salirò. Ti piace questo fegato? È molto interessante, insomma, sarebbe da considerare. Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Anche noi non è che siamo proprio pronte per il triathlon, direi, ecco. Però, però. Quindi fate attenzione a quello che diciamo da qui alle 12. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Che cos'è questo rumorino che sento dal telefono? Adesso speriamo di secondo sistemarlo. Me è Carmelo Lauricella che vuole. Se ne combina una delle sue. Con la mano, e invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Quanto è importante per farci stare bene, ma anche quante preoccupazioni ci dà dal punto di vista dei denari, con tutte le puntate che abbiamo fatto sulla Tari, la Tasi l'anno scorso, Nicoletta, e probabilmente torneremo. Ci dovremo ritornare nel corso dei prossimi mesi. Ci riferiamo alla casa che per vari motivi negli ultimi mesi si sta rivelando una vera e propria emergenza sociale nel nostro paese. Per quale motivo? L'ultima notizia su cui ci concentriamo oggi a Cuore Denari è la scadenza del blocco sfratti, che ha messo in allarme molte famiglie nel nostro paese che temono di trovarsi in mezzo ad una strada. Noi ne parliamo nella prima parte della puntata di oggi, rispondendo alle vostre domande. Speriamo di tranquillizzarvi. 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi. Di sfratti, ma non dalle case, ma da sedie e divani, parleremo invece nella seconda parte del programma con il dottor Franco Confalonieri, che torna oggi a grande richiesta a Cuore Denari per aiutarci a vincere la nostra personale battaglia contro la sedentarietà. Perché ormai provato che uccide più la sedia che la spada, come a dire che il pericolo, Deborah, è proprio sotto il nostro sedere. Ma per vedere il bicchiere mezzo pieno, che a mio avviso aiuta molto di più, pensate che in media chi è attivo e normo peso vive circa 7 anni più a lungo rispetto ai sedentari in sovrappeso o obesi. Allora oggi con il nostro esperto cercheremo, con la ricerca alle mano, di sfrattare i sedentari puri e duri dal divano e di aiutare chi sta accarezzando l'idea di praticare un po' di attività fisica, ma soprattutto cercheremo di aiutare a scegliere quella più adatta in base alle caratteristiche psicofisiche individuali e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Quindi meglio cogliere l'attimo, Deborah, e non sbagliare per non perdere tempo e denaro. Insomma, proveremo a passare dalla teoria alla pratica, consigli naturalmente a chi dal divano si è anche già alzato da un bel po', o forse non si è mai sdraiato e ha già fatto tanta tanta strada, ma sa di poter fare meglio. Quindi sedentari incalliti, sedentari prossimi alla conversione, parzialmente attivi, sportivi amatoriali, chiamateci, ce n'è per tutti. Vogliamo oggi fare una sorta di sondaggione per capire qual è il profilo più diffuso tra i nostri ascoltatori. Chiamateci o scriveteci al nostro numero 349-238-6666, a ciascuno il suo momento, il suo programma. Per scoprirlo, prenotatevi. Voglio andare a casa, a casa dov'è? È un vero SOS quello degli assessori alle politiche abitative dei comuni di Roma, Milano e Napoli al governo. Il blocco di... È allarme in Veneto per centinaia di famiglie che hanno la casa in affitto. Non bastano i 3.000 sfratti annui per morosità a Genova, perché a questi molto presto potrebbero sommarsene altri. Circa 150 famiglie, infatti potrebbero... Niente proroga al blocco degli... E allora avete sentito quanti telegiornali, radiogiornali si stanno occupando nelle ultime settimane di questo argomento. intanto cosa è successo? Che a fine anno, il 31 dicembre, è scaduta la proroga del blocco sfratti, scaduta e non sarà in tutta probabilità rinnovata. Siamo dunque, a quanto pare, alla vigilia di una vera e propria emergenza che riguarderà diverse migliaia di famiglie nel nostro paese. Sono state sparate un sacco di cifre, si parla comunque di circa 30.000 nuclei familiari, qualcuno addirittura parla di 50.000. Famiglie che rientrano in categorie deboli, particolarmente svantaggiate, quindi anziani a basso reddito, famiglie che a loro volta hanno anziani in casa, famiglie con malati terminali in casa o portatori di handicap, con invalidità molto alte, almeno superiori al 66%, famiglie con minori a carico. Una situazione che periodicamente si ripropone. E qualcuno proprio in questi giorni ricordava come si tratti di un problema a cui non si è mai trovata una soluzione da quando è stata emanata la legge numero 9 del 2007, una legge che prevedeva una prima proroga per queste categorie ed era una norma che stanziava anche dei fondi per rispondere al problema della casa. Nel frattempo la situazione si è aggravata con l'aggiunta degli sfratti per morosità, una situazione accentuata naturalmente dalla crisi. In questa prima parte di Cuore e Denari ne parliamo con Aldo Rossi, segretario nazionale del SUNIA, buongiorno. Buongiorno a voi. Buon anno, segretario. Sindacato degli affittuari, degli inquilini. Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI, invece l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Pucci, buongiorno e benvenuto e buon anno anche a lei. Non ce lo abbiamo ancora, ma adesso lo stiamo raggiungendo. Certo. 800 24 00 24, raccontateci la vostra storia, se lo sfratto è un tema che vi tocca da vicino, voi un familiare, un conoscente, diteci che cosa succede, cercheremo di capire come rimediare a questa situazione che a volte comprensibilmente diventa drammatica per molte famiglie. Allora, prima però di addentrarci in questo argomento, abbiamo necessariamente questa mattina anche dei aggiornamenti per quello che riguarda la situazione di Parigi. Abbiamo Katia Caramelli dalla redazione che ci aggiorna sulle ultime novità. Katia, eccoci qua. Sì, buongiorno. 300 tra bambini e maestre si trovano in una scuola primaria a poca distanza da dove è in corso da questa mattina l'imponente operazione di polizia per catturare i due terroristi responsabili dell'attacco a Charlie Hebdo. Ci colleghiamo con la Francia. Sergio Nava. Sì, buongiorno, è arrivato proprio pochi minuti fa al Ministero dell'Interno François Hollande per una riunione di crisi per seguire ciò che sta avvenendo a Dammartin-en-Gueule, dove in questo momento i due fratelli Kouachi stanno tenendo in ostaggio almeno una persona, sono pesantemente armati e soprattutto sono braccati. Sparatoria questa mattina quando sono stati intercettati di ritorno dalla Picardia, dove hanno rubato anche un'auto per poter continuare la fuga, però poi la polizia li ha obbligati appunto a inserragliarsi in questa azienda di 5 dipendenti. C'è almeno un ostaggio, in questo momento sono in corso le trattative e sappiamo anche che l'ospedale vicino è stato messo in stato di preallerta proprio per possibili feriti e le rotte sull'aeroporto Charles de Gaulle, che si trova solamente a 5 km dalla zona, le rotte dei voli sono deviate, l'aeroporto è aperto, operativo, però la situazione è talmente seria che anche le rotte degli aerei sono in questo momento deviate per evitare la zona. Maggiori aggiornamenti tra un quarto d'ora. Grazie per il momento a Sergio Nava, la linea torna a Cuore Denari. Grazie a voi Katia, grazie anche a Sergio a Parigi, partito ieri in tutta fretta naturalmente, quindi ci continuerà a raccontare quello che sta accadendo. Noi torniamo al nostro argomento, un'altra emergenza molto diversa naturalmente da quella francese che però riguarda migliaia di famiglie italiane. Vi dicevo prima appunto il governo quest'anno ha deciso che non prorogherà il blocco degli sfratti. Vi faccio sentire prima di cominciare a commentare questa notizia con Aldo Rossi e Fabio Pucci, vi faccio sentire cosa ha detto proprio questa mattina il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi intervenendo su Canale 5 a Mattino 5. In questi anni si è dimostrato che bloccare gli sfratti non è la soluzione ad un problema reale che è il diritto all'abitazione. C'è il diritto all'abitazione e c'è il diritto alla proprietà. Il blocco degli sfratti, della proroga degli sfratti, riguardava solamente i contratti a fine locazione. I contratti a fine locazione su cui ho richiesto gli sfratti sono meno di 3.000. Chi mette una casa sfitta in affitto se non ha la certezza alla fine del contratto ritornare in possesso della propria casa? C'è un'emergenza vera ed è nel 2013 138.000 richieste di sfratti, il 92% di queste richieste sono per morosità, solo l'8% per fine locazione. Questa proroga degli sfratti nel 2014 ha riguardato meno di 3.000 famiglie. Abbiamo messo 200 milioni di euro a disposizione dei comuni per risolvere esattamente questi problemi. Quindi smettiamola con le ideologie, sfruttando problemi reali che ci sono, e rimbocchiamoci le maniche e risolviamo i problemi. Ministro Lupi, come avete sentito, ha cercato di fare un po' di chiarezza sulle cifre. Allora, Aldo Rossi, segretario generale delle SUNIA, effettivamente forse è stata fatta un po' di confusione in queste settimane. Questo naturalmente non vuol dire che vogliamo sminuire questa emergenza. Chiariamo per i nostri ascoltatori che ci sono diversi tipi di sfratti. Iniziamo da quelli per finita locazione, che sono, da quello che abbiamo capito, proprio quelli che sono interessati al provvedimento del governo, che a questo punto non arriverà più, mi sembra di capire. Che ne dice Rossi? Ma io intanto vorrei sottolineare che molte cose dette dal ministro Lupi non mi convincono assolutamente. Quali, ad esempio? Il primo non ci dice da quale fonte prende questi dati. Non esistono questi dati che lui sta tirando fuori dei 2.000 casi, perché ovviamente non sono mai stati pubblicati dal Ministero, non c'è traccia di questo. A noi risultano altre cifre, e in ogni caso mi pare che il riferimento che lui fa anche allo stanziamento, che non riguarda in prima battuta queste famiglie, va detto sostanzialmente, perché queste famiglie cominceranno ad essere attenzionate ovviamente nel momento in cui ci sarà l'esecuzione dello sfratto, che probabilmente precederà la possibilità di una sistemazione. Quindi Rossi mi dica, secondo lei le cifre quali sono, a parte il fatto che poi potrebbe, anche se fosse una famiglia sfrattata, non sono inferiori a 30.000, quelle che rischiano di essere sfrattate per blocco, per termine, per fine dei termini del contratto di locazione? Ecco, qui va chiarito, si tratta solo di sfratti per fine di locazione. Ecco, l'unica cosa corretta che mi pare abbia detto il ministro che questa abbiamo sollevato noi da tempo, che è l'emergenza morosità, che sono oltre 150.000. Ecco, infatti. Bene, questi per finita locazione non sono tutti bloccati, anche questa è un'inesattezza, sono bloccati solo quelli che lei opportunamente in introduzione ha chiarito, riguardano fasce veramente bisognose di famiglie. Farei un'aggiunta a quello che diceva lei, forse lei è sfuggito nella esposizione: queste famiglie, oltre che avere una di quelle emergenze che lei prospettava, debbono anche avere un reddito che è inferiore a 27.000 euro. Esatto, non basta avere un handicap, se ho un handicap e 40.000 euro non ho diritto a questa proroga. Va aggiunta anche un ulteriore elemento: il proprietario, se sta nelle stesse condizioni o se ha necessità dell'alloggio o se l'inquilino è moroso, poteva, finché c'è stata la legge, denegare il diritto alla proroga. Quindi francamente adesso, al di là dei numeri, mi pare di poter dire che quantomeno un discorso su una sospensione tecnica rispetto alla possibilità di un'agevolazione a queste famiglie andava preso in considerazione. E la chiusura del ministro francamente non la comprendo, perché non mi pare che su questa questione si stanno giocando le sorti della proprietà, come diceva lui. Mi pare che l'ideologia in questo caso la stia facendo lui, e quindi noi giocheremo le nostre carte anche nei confronti del Parlamento, che dovrà convertire in legge il decreto milleproroghe. Ecco, tra l'altro Rossi, il ministro Lupi ricordava di questi fondi stanziati in passato per far fronte a queste emergenze, no? Ma questi fondi teoricamente come venivano gestiti? Erano i comuni incaricati eventualmente di erogare dei sostegni a queste famiglie? Cioè come funzionavano? No, io credo che il ministro si riferisse a fondi, i sostegni alle famiglie riguardano il pagamento del canone. Queste sono famiglie che non solo pagano il canone, ma lo pagano maggiorato, anche questo va detto. Pagano il 20% in più proprio perché hanno la proroga. Quindi in realtà i fondi riguardano la ristrutturazione di alloggi da assegnare e ovviamente la costruzione di alloggi da assegnare. Ora, francamente, questi fondi erano bloccati da anni al Ministero, parliamo di fondi addirittura del governo Prodi e del ministro Di Pietro. Ah beh, adesso, stiamo parlando della preistoria praticamente. Purtroppo, non sono mai stati utilizzati per queste famiglie, adesso ne sono stati recuperati alcuni, comunque sono stati recuperate somme non spese e sono stati avviati piani per risanare alloggi che dovrebbero essere destinati, ci auguriamo, anche a queste famiglie, certo. Ma non mi risulta che c'è un alloggio pronto da questo punto di vista, tanto è vero che si è discusso nei giorni scorsi, lei sa bene, delle occupazioni, dei problemi problemi che abbiamo a Milano, dei problemi che abbiamo nelle grandi e infatti città. Tutti gli assessori alla casa, diciamo, dei comuni maggiormente interessati a questo problema si sono mossi, è vero, anche Daniele. Stanno facendo ideologia. Stanno facendo ideologia gli assessori di Milano, Roma, Napoli? Punto di domanda. Non mi pare. Però facciamo una cosa, Rossi, noi cerchiamo di dare dei consigli e delle informazioni concrete per i nostri ascoltatori. Noi non la facciamo e cerchiamo invece di capire in che condizioni si possono trovare queste persone che a questo punto hanno contratti scaduti, situazioni familiari difficili e non hanno nessuna proroga del blocco dello sfratto. A questo punto chiedo alla proprietà che cosa pensa di fare. Pucci, chiedo a lei come categoria, come pensate di comportarvi se questa proroga non ci sarà? Cosa succederà a questa famiglia? Guardi, perché ogni proprietario deciderà di conseguenza? Il problema sociale è innanzitutto ovviamente il rispetto per tutte quelle famiglie che hanno degli anziani, dei minori, dei portatori di handicap e quant'altro, e ovviamente che tra l'altro pagano, ricordiamolo, hanno solo contratti in scadenza, ma pagano regolarmente. Ma non è un problema, che però può essere sempre, perché sono 70 anni che facciamo queste proroghe. Ora voglio dire, è possibile che in 70 anni nessuno tra le associazioni dell'inquilinato, che ovviamente non è che hanno delle responsabilità, ma sono coloro i quali però tutelano gli interessi dell'inquilino, e lo Stato, possibile in 70 anni non si sono trovate mai, diciamo così, delle soluzioni, e queste soluzioni sono state sempre risolte, sempre e solo dalla piccola proprietà immobiliare? Non mi sembra giusto un ragionamento del genere, perché anche dalla parte di chi è proprietario probabilmente ci sono delle esigenze che magari dovrebbero essere maggiormente tutelate. Allora il problema non è spostarlo dicendo facciamo una proroga, che tanto ci sono i piccoli proprietari che fanno da contenitore o che fanno da ammortizzatore sociale. Mi sembra, come ha detto, io ritengo giustamente, il ministro Lupi, no? Vogliono dare una svolta, bene, la diano, ma diano anche ovviamente delle soluzioni. Ma la soluzione non può essere rimanere sempre ingessati nelle stesse logiche. Questo è quello che ha sempre detto la piccola proprietà immobiliare, per la quale ha fatto sempre da scudo naturalmente a tutti questi decreti di proroga che sono incostituzionali. Lo sappiamo tutti che questi sono decreti incostituzionali. Oggi questo governo ha deciso di fare altrimenti. Benissimo, siamo contenti, ovviamente noi rappresentanti della piccola proprietà immobiliare, non si può più ritornare indietro. Però abbiamo capito, però lei adesso mi sta rifacendo un po' di ideologia. Io le vorrei chiedere, Pucci, cosa intendete fare in questo momento? Niente, noi manteniamo fermo, cioè ormai questo provvedimento o questa decisione deve rimanere tale, e faremo del tutto perché rimanga tale. E quindi 30.000 famiglie nel giro di poche settimane è un problema, non si può dire che ci sono 30.000 famiglie che stanno sullo sfratto, sono decenni che diciamo provvedete, e certo, se poi uno mi mette davanti il fatto compiuto, ma non è un mio problema, non lo devo risolvere io, lo devono risolvere loro, e non posso io sempre e comunque risolverlo. Questo intende loro su mia, intende loro governo? Non c'è soluzione, io intendo tutti lo dovete risolvere. Intendo dire i preposti alla risoluzione del problema. Insomma, ovviamente in primis c'è lo Stato, naturalmente. No? No, ritorniamo sempre alle solite logiche. C'è stata una svolta il 31 gennaio del 2014? Bene, rispettiamola. Allora, 800 24 00 24, vedo una, come dire, adesso non mi viene bene il termine, insomma un testa contro testa, una situazione che comunque mi pare che potrebbe essere piuttosto complicata nelle prossime settimane. Sentiamo un po' intanto qualche ascoltatore, va? Sentiamo Maurizio che ci chiama da Padova. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno, mia moglie ha un appartamento in affitto, loro c'è un anno che non pagano perché dicono che non hanno soldi, però lui lavora e a questo punto non vedo l'ora di mandarli fuori dall'appartamento e venderlo, perché noi paghiamo anche l'IMU. Sono spese in più, sempre spese. Infatti Maurizio, guardi, tutte le volte che tocchiamo questo argomento, chiaramente pur comprendendo la situazione di difficoltà in cui molte famiglie si trovano e che non riescono a pagare l'affitto, c'è anche dall'altra parte naturalmente una proprietà che molto spesso ha una casa, una seconda casa, la mette a reddito, e magari quella è l'unica fonte di reddito, no? di una famiglia, perché può succedere anche questo, ci paga sulle tasse, quindi qualche volta, insomma, abbiamo nell'immaginario collettivo un'idea del proprietario immobiliare come se fosse uno speculatore, esatto, e invece non è così, no? Non è sempre così. Ecco, allora magari un commento su questo caso, sull'amorosità incolpevole, Rossi, ammettendo che l'inquilino di Maurizio sia in questa situazione, naturalmente. Cosa possono fare entrambe le parti per venire fuori da una situazione ingessata come quella che Maurizio da Padova ci ha raccontato? Cominciamo con il Sunia, poi andiamo alla proprietà. Ma io francamente so quello che diceva il signore, l'inquilino lavora e quindi in questo caso già per definizione non dovrebbe essere incolpevole l'amorosità, quindi lui seguirà le sue procedure per lo sfratto. E mi allaccio a quello che dicevate prima, cosa succederà nei prossimi giorni? Succederà che verranno sfrattate queste persone, cioè Pucci bisogna che lo chiarisca questo aspetto qui, gli avvocati dei proprietari, non essendoci più questa proroga, riprenderanno in mano, per cui alle emergenze degli sfratti per morosità e incolpevole, tra l'altro, si aggiungeranno anche queste qua. Questo va detto molto chiaramente, però le persone oggi non ci sono. Però deve essersi, immagino, anche instaurata una, come dire, un'istruttoria ben precisa. Non è che sono già sfratti pronti per l'esecuzione. I contratti sono terminati da quanto? Ma da varie epoche ci sono provvedimenti esecutivi che l'ufficiale giudiziario l'anno scorso, per chiarire tecnicamente come mi ha chiesto lei, l'anno scorso è andato dal signor Rossi, uno che si chiama come me, l'ufficiale giudiziario, gli ha rinviato lo sfratto a dopo di dicembre del 2014 perché c'era la proroga. Quindi nei prossimi giorni andrà là e, non essendoci la proroga, potrà richiedere la forza pubblica per mettere fuori questa famiglia. Non voglio fare brutalità o terrorismo, anche perché ha detto bene, siamo in imbarazzo perché stiamo aspettando notizie ben più gravi, però francamente questa è la sorte che avranno queste famiglie. No, adesso... E non dico a Pucci o a Luppi di farsene carico, noi abbiamo chiesto al governo un provvedimento che tampone, che consentisse di poter sistemare queste famiglie. La risposta per adesso è stata di chiusura. Allora, adesso ci fermiamo perché andiamo a sentire la borsa, poi ci ritorniamo su questo argomento. Mi sembra veramente complicato, anche perché da quello che abbiamo capito, appunto, si parla di famiglie in condizioni di marginalità estrema. Ha ragione Pucci quando dice questa è una situazione che va risolta, le organizzazioni di rappresentanza se ne devono fare carico, però ecco, ribadisco, stiamo anche rappresentando casi che hanno un potere negoziale molto basso, perché si fa molta fatica, naturalmente, quando sei in una condizione con anziani in casa, malati, bambini, ad andare a discutere con qualcuno per, come dire, far presente i tuoi diritti in questo caso. 800 24 00 24, andiamo a sentire i mercati? Sì. Cuore e denari. Lo sport è fondamentale. Mens sana in corpore sano. Io non perdo occasione per allenarmi un po'. E penso proprio che si veda, o no? Del resto, quanti anni mi date? Guardi, io non ci azzecco mai con queste cose. Non saprei. Al massimo 47 anni. Non ci è andata vicina neanche un po'. Rimarrebbe sorpresa se le dicessi quanti sono. Bentornati a Cuore Denari, parliamo di sfratto, con Deborah ci stiamo occupando di questa emergenza, sono tante le famiglie coinvolte a cui stanno finendo i contratti d'affitto e che non sono in condizione di accedere a soluzioni alternative. Speriamo di tranquillizzarvi o quantomeno di darvi tutte le informazioni più importanti, ma come sempre ci piace anche giocare un po' con le parole per alleggerire un po' queste notizie. Ecco perché a partire dalle 11.45 proveremo a sfrattarvi dal divano. Tutti noi sappiamo che non basta mangiare bene per stare bene, bisogna anche dedicare un po' di tempo all'attività fisica, abbiamo tutto da guadagnare, ma quante volte ci abbiamo provato e poi abbiamo buttato la spugna per mancanza di tempo, di voglia, ma anche perché i risultati non arrivavano, almeno non quelli che ci aspettavamo. Questo è un po' il problema. E allora a ciascuno il suo programma, non siamo tutti nati per fare i runner, per andare in palestra, fare pesi. Scopriremo oggi insieme l'attività più rispondente al nostro profilo e alle nostre necessità. Che cosa vi ha convinto, ad esempio, a inserire tra i vostri buoni propositi l'attività fisica? Quanto tempo avete a disposizione e quali obiettivi volete raggiungere? Chiamateci 800 24 00 24 e il dottor Franco Confalonieri, che ci raggiungerà tra poco, cercherà di proprio cucire il programma su misura per voi, come un abito di alta sartoria. Non è Palazzo Reale, comunque è la casa di due gentiluomini. Qui comando io. Sono o non sono il padrone di casa? No. Come no? Il padrone di casa è il cavalier Terlizzi e sta dentro. Senti, senti, questo è bello. Mi sta aspettando da un'ora ed è arrabbiatissimo. Oh, senti quest'altra. E ha detto che questa volta non se ne va se non gli pagate l'affitto. Ma tu stai sentendo? Ho sentito, che sono sordo. Allora, come facciamo? No, che scappiamo, bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna. Cioè, questo pure bene. Buona donna. Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna? Fa affari suoi. Ma vuoi smettere di scherzare, sì o no? Allora, la soluzione non è scappare, naturalmente la soluzione è cercare di affrontare questo problema, anche se c'è qualcuno ce lo segnala, qualche proprietario, chi effettivamente magari lascia le case con delle pendenze consistenti, un anno di affitto non pagato, addirittura un ascoltatore ci scrive 15 mesi, c'è anche chi ci racconta: il mio inquilino rimane lì, non mi paga perché dice sa di essere tutelato. Allora, io credo che queste famose 30.000 famiglie delle quali abbiamo parlato prima hanno delle situazioni di oggettiva difficoltà, abbiamo detto hanno contratti in scadenza, continuano regolarmente a pagare, il tema è che i proprietari vogliono ritornare Pucci legittimamente in possesso della propria proprietà. Lei no? Aveva fatto prima una domanda molto pertinente alla quale ha risposto solamente Aldo Rossi, non mi è stata data la possibilità di Ci mancherebbe, siamo ritornati. No, ma sulla cosiddetta morosità incolpevole, sì. Perché questo è un concetto che deve essere molto chiaro, che è quella poi documentata impossibilità di pagare l'affitto. E per accedere però a questa opportunità bisogna farsi riconoscere il cosiddetto status di moroso incolpevole. Dopodiché è il comune, questa è la risposta che lei si aspettava, è il comune che naturalmente gestisce questi fondi e più ovviamente ne gestisce e meglio è, quindi ovviamente si parlano sempre di queste esigenze economiche che un comune deve gestire. Perché lei dice più ne gestisce meglio è? Meglio è. Perché il comune più soldi ha e meglio è, però nessuno dice che questo fondo, no? Che viene naturalmente costruito dallo Stato e poi dato, è un fondo che comunque viene sempre pagato, anche se in misura percentuale, dallo stesso proprietario. Quindi voglio dire, il proprietario c'ha l'appartamento, lo dà in affitto, non viene pagato dall'inquilino, il quale può ovviamente ricorrere al cosiddetto fondo per la morosità incolpevole, che comunque viene riempito anche dai soldi del proprietario. E questo mi sembra una cosa assurda, voglio dire, mi sembra assurda. No? Allora, c'è stato uno stop da parte di questo governo, ben venga, risolviamolo sul serio i problemi. Lei dice insomma un provvedimento drastico per fare in modo che ci sia... niente, sono 70 anni che stanno facendo queste proroghe, basta, adesso cominci lo Stato a pensare a questi poveri disgraziati, ma da oggi, anzi da ieri ci doveva pensare, non da domani, non dicendo facciamo un altri 4, perché tanto io me lo aspetto, guardi che arrivi un'altra proroga. Sì, ma si figuri, vedrà che da qualche decreto omnibus, come si chiama, eccetera eccetera, e questo sarebbe veramente un male, perché significa che allora questo governo non vuole cambiare. No, oppure facciamo così, riprendiamoci questa proroga, ma a questo punto che parta un anno di lavoro per fare in modo che a gennaio dell'anno prossimo non ci ritroviamo a parlare dello stesso problema nei medesimi termini. Nicoletta, lei che crede, dice? Dopo 70 anni. Io vorrei sentire anche le previsioni di Aldo Rossi. Certamente. Che cosa prevede invece? Ma io vorrei essere un po' più sul concreto. Noi infatti adesso abbiamo chiesto un incontro all'ANCI, al governo, al Parlamento. Quindi e comuni non diremo, italiani. Non diremo siamo contro la proroga o siamo a favore della proroga. Noi diremo, ci dica il governo quante sono le persone in queste condizioni. Dica in che tra l'altro perché è tanto difficile trovare questo dato? I contratti di affitto sono registrati, Rossi? Alle prefetture, ai tribunali, alle corti d'appello che gestiscono le situazioni degli ufficiali giudiziari. Sta di fatto che questo dato non c'è. Se è così ridotto, allora si faccia un piano di 4 mesi per assegnare a queste famiglie le case che dovrebbero essere rese disponibili, dico sempre col punto interrogativo. Quindi la nostra sarà una proposta concreta. Noi, a noi non interessano mai le proroghe fine a se stesse. Abbiamo detto si sistemino queste famiglie. Ora però non ci sono le prospettive di questa sistemazione, per cui tutto questo comincia ad apparire un po' come un voler fare le anime belle, purtroppo sulla pelle di alcune persone che hanno Ci mancherebbe, ma io non dire che, quali sono le categorie, già dice tutto, insomma, sostanzialmente. Io non credo che nessuno voglia fare l'anima bella, Rossi. Perfetto, è anche vero che la proprietà ha ragione rivendica. Allora ci diano risposte rispetto a quale piano concreto c'è per dare un'abitazione alternativa a queste famiglie. Noi da anni stiamo dicendo una formula che forse è un po' stucchevole, ma è ancora attuale. Qual è? Passaggio da casa a casa. Questa era la nostra formula e noi questa ribadiamo sostanzialmente. Passaggio da casa a casa. Sì, no, ma nel senso la casa da cui si proviene la capisco, in quale si dovrebbe approdare? Beh, queste che dovrebbero predisporre i comuni con questi finanziamenti che il ministro dice che ci sono. A noi non risulta che questi alloggi siano stati ristrutturati. I soldi non sono ancora arrivati o stanno arrivando, ci vorranno dei mesi per poter sistemare questi alloggi, bene che vada. E quindi francamente questo è il momento peggiore, allora, data la morosità per poter intervenire su questa materia. Allora, tanti proprietari che ci scrivono e ci chiamano, ma in realtà abbiamo adesso anche la persona che è proprio sotto sfratto. Sì, è Federica che ci chiama da Roma all'800240024, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Federica, che succede? Ben trovati a voi, buongiorno. Io sarò schematica perché mi hanno raccomandato una brevità che alla quale devo far fede. Senta, si tratta di persona di 77 anni, sola, con assegno sociale, quindi una pensione sociale, abita non è morosa, non è mai stata morosa, ha uno sfratto per cessata locazione. Esatto. Ecco, quindi ovviamente non è morosa, e ha qualche ritardo sulle spese di condominio. Mm-hmm. Ecco, il proprietario di casa possiede nello stesso stabile altri 1, 2, 3 appartamenti. Però vorrebbe riprendersi questo. Uno da un altro figlio e uno da lui. Federica, allora, intanto nessuno può dir nulla a proposito del diritto che rivendica il legittimo proprietario. Andiamo però a questa situazione delicata della quale chiaramente bisogna farsi carico, no? Ed è proprio, direi, una di queste 30.000 persone delle quali stiamo parlando questa mattina, questa vecchina di cui ci ha raccontato Federica. Rossi, è proprio l'emblema di questa situazione. Ecco, ha detto bene, non dovrei aggiungere altro, voglio solo aggiungere che tutte quelle situazioni sono queste qua, perché abbiamo detto è esclusa la morosità, è in qualche modo acclarata lo stato di necessità dell'inquilino, quindi francamente riteniamo che accanirsi su il discorso di una proroga che riguarda comunque un numero limitato di persone e di famiglie rispetto a quelle che per esempio sono le morosità, francamente non lo comprendiamo. Allora si faccia un piano per poter sistemare queste famiglie a breve, perché la signora di cui si parlava ha sicuramente diritto all'assegnazione, e anzi le dico un'altra cosa pratica: noi come sindacato ogni volta che facciamo una richiesta di proroga alleghiamo anche per l'ufficiale giudiziario la richiesta dell'alloggio presentata al comune, cioè a dire vogliamo dimostrare appieno la buona volontà dell'inquilino di trovare, non vuole stare in danno del proprietario all'interno di quell'abitazione. Quindi ci sembra che se si affronta in maniera pacata questa problematica si può trovare anche qualche soluzione. Tra l'altro richiederà dei tempi. Infatti, allora, noi stiamo quasi terminando l'approfondimento su questo argomento, volevo fare solamente un'ultima domanda, perché stiamo parlando di Roma, Napoli, Torino, città grandi dove magari qualche programma importante di edilizia popolare dove poter dirottare queste famiglie che rischiano di trovarsi da un momento all'altro sulla strada c'è anche. Immagino che però ci sia una situazione molto eterogenea sul territorio, Fabio Pucci, perché qua se parliamo, che ne so, i Casal Pusterlengo di Crotone, di piccoli centri, qua il problema è molto meno sentito, ovviamente. È chiaro che tutto quanto si concentra nelle grandi metropoli, su questo non c'è problema, però adesso non voglio fare, per carità, lo sfrattatore folle a tutti i costi. Ma ci credo che non volete fare. Però c'è un fatto che se lei, specialmente nei grandi centri, va un po' in giro per Roma, vedrà tanti cartelli Quindi voglio dire, la domanda in questo momento c'è ed è fortissima. Il problema è che le persone che devono venire fuori da queste case, che hanno i contratti in scadenza, non hanno risorse economiche per andare ad affittare i prezzi di mercato, Pucci, lei lo sa. No, aspetti, il mercato è di molto calato e la domanda è molto forte, ma non è detto che una casa in affitto sia per sempre. Questo ormai, diciamo, è un concetto che bisogna abbandonare. Ma la vecchina di cui ci ha raccontato poco fa l'ascoltatrice, dove la mandiamo? Ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, fa molta pena, però voglio dire, la vecchina non è che è diventata vecchina quest'anno, evidentemente il problema era già sentito, e dico allora, bisognava intervenire, ci deve essere una fine a queste cose, non può essere per sempre una proroga, ci deve essere una fine, e oggi benissimo, cominciassero a dire ci sono gli alberghi, ci sono le caserme, cominciassero a costruire, ma devono risolverlo socialmente, non privatamente. Questo voglio sottolineare. Grazie ad Aldo Rossi e Fabio Pucci. Nicoletta, è veramente difficile gestire una situazione nella quale hanno tutti ragione. È vero? Ma noi torneremo ad affrontare la questo tema. La monitoriamo attentamente, guarda, perché ci teniamo per Intanto la vecchina di Roma e come non sempre solo. I nostri ascoltatori ad approfittare della mail di Cuore Denari, perché il nostro servizio continua anche al pomeriggio. Dateci però il tempo di rispondervi. Visto che non esiste un censimento ancora ufficiale, cominciamo a farlo noi, uno virtuale, vediamo se possiamo un po' dare qualche statistica ulteriore ad Aldo Rossi e Fabio Pucci. Cuore e denari. Lo sport mantiene giovani. Lo conferma una ricerca del King's College di Londra condotta su migliaia di coppie gemelle. Secondo questo studio inglese, il fratello con una vita fisicamente attiva è biologicamente più giovane di ben 10 anni rispetto al gemello sedentario. Basta poco, 3 ore e mezza di attività fisica a settimana e si rimane più giovani più a lungo. E dai Deborah, tutti sappiamo che fa bene, tu sei tra l'altro sei una sportiva perfetta. Perfetta no, però ci provo, insomma, no, mi muovo. Molto bene. E tutti sappiamo che superate le prime settimane diventa anche piacevole e divertente, che sa dare belle soddisfazioni. Lo sentiamo ormai ripetere ovunque da chiunque, tanto che diciamo pure la verità, chi si lascia sedurre dal divano si sente un po' colpevole, inadeguato, fuori posto, perché schiavo di questa sedentarietà. E discutevamo proprio con Deborah nel preparare la puntata che sedentarietà, questa parola che fino a poco tempo fa indicava le persone poco attive, non dinamiche, oggi, alla luce delle ricerche, è diventata proprio sinonimo di un fattore di rischio, della serie ne ammazza più la sedia della spada. E allora oggi, con i consigli del nostro esperto, vogliamo allontanarci dal pericolo che sta proprio sotto il nostro sedere. Buongiorno al dottor Franco Confalonieri, il nostro è tornato spadaccino a trovarci. Buongiorno, è lì, siamo seduti su un pericolo. Buongiorno, buon ritorno. Trovati tutti, buon anno a tutti, pieni di salute su misura. Questo può essere lo slogan. Taylor made. Sì, perché oggi cercheremo esatto. Taylor made mi piace tanto. Eccolo. Brava. Vedi. Allora, d'altronde, dottor Confalonieri, i medici, anche lei, naturalmente, lo ripetono da anni, l'elisir di lunga vita, il farmaco più efficace, capace di svolgere l'azione preventiva e terapeutica a livello fisico e mentale, senza effetti collaterali e ha un solo nome. Il movimento regolare e costante, di cui non si scappa, ma è vero anche che ci sono tante scuse che ci tengono al palo. Una leggera e sana dose di pigrizia, una particolare sensibilità alla fatica, perché c'è anche questo, oppure l'avversione per la competizione, ma anche una struttura fisica e motoria più incline al pensiero che al gesto, diciamo così, oppure la mancanza di tempo. Ma pesano anche le esperienze deludenti, senza contare chi ha dovuto per forza diventare sedentario per problemi articolari e muscolari. A volte basta poco, un tendine un po' malandato, un menisco usurato. Allora oggi abbiamo pensato di delineare dei profili per raccontare un po' le persone che, come sempre succede all'inizio dell'anno, l'abbiamo fatto anche io e Deborah in segreto, si fa un po' un elenco dei buoni propositi. E sicuramente insieme a quello di mangiare meglio c'è anche quella di muoversi di più. Le ragioni che possono spingere a farlo sono tante: c'è chi vuole ridurre un po' la massa grassa e tonificare i muscoli, chi magari vuole eliminare i dolori, i dolorini alle articolazioni e quindi sfruttare l'azione riabilitativa dell'attività fisica, chi invece vuole muoversi perché ha capito che deve scaricare lo stress. E c'è chi sta già praticando sport ma vuole fare meglio. Noi abbiamo identificato questi quattro profili. Naturalmente vi invitiamo a raccontarci il vostro, 800 24 00 24, perché il dottor Confalonieri, in base alle vostre indicazioni, vi aiuterà a scegliere l'attività fisica, i tempi e i modi per praticarla. Dottor Confalonieri. Eccomi. Allora, io riparto proprio da due cose che ho sentito adesso. Il tailor made della nostra conduttrice e gli effetti collaterali, perché sono due concetti fondamentali. Cioè, non è vero che lo sport è un farmaco senza effetti collaterali. L'esercizio fisico è un farmaco molto efficace e, come tutti i farmaci molto efficaci, ha anche dei potenziali effetti collaterali. Quindi è fondamentale praticare l'esercizio fisico più adatto a ciascuno di noi, cioè tailor made su ciascuno di noi. E i quattro profili che tu, Nicoletta, hai indicato sono quattro profili assolutamente corretti. Cioè, chi fa sport per rimodellarsi, quindi tonificare la muscolazione e ridurre la massa grassa, chi fa sport perché ha dei dolori, si muove meno bene, non sta tanto bene, quindi vuole rimettere a posto quello che della sua struttura comincia a funzionare un po' meno bene, chi fa sport per l'effetto olistico, antistress, di benessere globale che l'esercizio fisico porta, ed infine chi fa sport perché ha ambizioni di tipo competitivo, vuole migliorare le proprie prestazioni e quant'altro. Quindi, innanzitutto io direi, vediamo tra chi ascolta la nostra trasmissione qual è la popolazione dominante. Quindi invito tutti a scriverci, a telefonarci e vediamo chi vince. Abbiamo già fatto questo richiamo, infatti molti ascoltatori ci stanno già scrivendo. Allora io lo richiamo una seconda volta perché voglio vedere chi vince, qual è la popolazione dominante. E poi partiamo da questo concetto che vince il dottor Confalonieri, nel senso che poi chi vince si porta a casa il dottor Confalonieri, esatto, che potrebbe essere anche un bel regalo. Glielo spediamo con un pacchetto post natalizio. Allora, intanto io inizierei subito con Francesco da Bari all'800 24 00 24. Vogliamo dare molto spazio alle vostre telefonate. Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buon anno. Senta, io sono un ex runner da 62 anni. Ovviamente ho imparato anche da voi che l'ascolto, l'autoascolto è la cosa più importante. Va, per io me lo bacerei, ciclo. Francesco. Lo ciclo. Che soddisfazioni! Allora, chiedevo al professor Confalonieri, voi che siete studiosi ovviamente della materia, esistono dei programmi per fascia di età? Voglio dire, è migliore uno sport? Sicuramente in assoluto è sempre sbagliato, no? Però diciamo così, volendo generalizzare, io ho capito che andare, continuare a fare run per mantenersi in forma a questa età non era più confacente alla mia struttura fisica, alla mia potenzialità. Sì, avevo forse espresso tutto. E invece ho trovato più sollievo magari facendo del Pilates, diciamo esercizi più. Perché nel corso yoga della vita si cambiano, certo, allora, cambiano le abitudini, cambiano le nostre esigenze, cambia anche la nostra costituzione, esatto, il nostro fisico, il corpo ci dice altre cose. Dottor Confalonieri, aiutiamo Francesco, vediamo bene, come se la cava. Una telefonata perfetta, innanzitutto perché le due chiavi per stare bene sono: uno, ascoltare il proprio corpo, e due, ascoltare Radio 24. E in particolare questa trasmissione. Quindi e questo si vede, cioè, cosa questo, dobbiamo fare? Dobbiamo adottarlo proprio. No, questo è il primo segreto. Secondo segreto, la domanda del nostro ascoltatore è particolarmente intelligente, nel senso che in funzione dell'età ci sono esigenze diverse. Allora, fin verso i 40, 45, 50 anni, la capacità che decade più rapidamente è la forza. Quindi qualsiasi programma dovrebbe essere incentrato soprattutto su un recupero, su un mantenimento della forza. Quindi dovrebbe essere soprattutto un programma di tonificazione e di rafforzamento muscolare. Dopodiché l'esigenza diventa cardiovascolare, quindi dobbiamo lavorare sulla resistenza e sulla capacità del nostro sistema cardiaco e circolatorio di restare efficace ed efficiente. E quindi lavori di resistenza, lavori aerobici, la corsa, il ciclismo, lo sci da fondo, il nuoto e quant'altro. Superata anche questa fase, diventa fondamentale voler bene al nostro corpo. E quindi ecco che il Pilates, il Watsu, lo Shatsu, tutte queste discipline, il Tai Chi, lo yoga, ci insegnano ad ascoltare il nostro corpo e a volerci bene, diventano fondamentali. Quindi io identificherei proprio tre fasi in funzione dell'età. 800 24 00 24, oppure i messaggi al 349 238 6666. Manu da Belluno ci scrive: Deborah, mi sembra un po' la situazione di tua sorella, no? Sì. Una mamma giovane con dei bambini piccoli, e quindi insomma Intendevi la mia? Sì, ah, sì. Okay. Nel senso, non capivo perché il messaggio. Cioè tua sorella sembrava qualcosa così di vago. No, la nel sua sorella, tante cose da fare, quando si hanno dei bambini piccoli, ritagliarsi spazio per lo sport. Mia sorella risolve non appena una mezz'oretta con una gran bella camminata. E invece Manu da Belluna ci scrive che è mamma di due bambini piccoli, non lavora a tempo pieno, in fabbrica seduta, sveglia alle 6, nanna 21:30, accetta qualsiasi tipo di consiglio, anche aerobico, da fare aerobica davanti alla TV. Ma ci scrive: a che ora? L'aerobica televisiva mi ha ricordato Jane Fonda. Ti ricordi? Bella, com'era bella. Allora, dottor Confalonieri, adesso, qua quando noi bisogna sta pensando all'aerobica, no, davanti alla TV a fare aerobica, ma alle allora, 21:30. Io innanzitutto direi tutto ciò che è legato alla, e qui so che mi faccio tanti nemici, sarò molto sintetico. Sì, perché Carmelo Lauricella ho visto, sinteticissimo. Tutto ciò che è legato alla televisione, alla tecnologia, a quant'altro, io non è che lo vedo con sospetto, però dico ok, ci vuole un equilibrio globale, quindi magari cerchiamo di fare qualcosa che ci sgancia da ciò che abbiamo nel quotidiano, che sono la tecnologia e la televisione. Adesso però se quindi noi non sfidiamo ci sganciano. Ritagliamoci degli spazi al di fuori di questo, poi vedremo quali sono questi spazi. A dopo. Cuore e denari. Fisico bestiale per resistere agli ultimi. Avete un fisico bestiale? Vorresti averlo nel corso del 2015? Tu ce l'hai. Ecco, ma va. No, altro mi che piacerebbe. 800 24 00 24, chiamateci, perché muoversi lo sappiamo conviene sempre a qualunque età, però bisogna scegliere l'attività su misura per noi, ed è quello che cercheremo di fare partendo dai vostri interventi con l'aiuto del nostro esperto, il dottor Franco Confalonieri, che è tornato a trovarci. Abbiamo tratteggiato quattro profili, ma voi naturalmente chiamateci per descriverci il vostro. Dottor Confalonieri, c'è chi vuole fare un po' di attività fisica per ridurre la massa grassa e potenziare quella magra, per ritornare in forma, no? Quindi ridurre la pancetta, tonificare i glutei, sfilare un po' le cosce, potenziare i bicipiti. Questo, se questo è il vostro obiettivo, chiamateci, perché il dottor Confalonieri vi darà un aiuto personalizzato. Ma so che ci sono ad esempio in palestra dei programmi specifici che sono molto interessanti, dei programmi di lavoro, funzionano? Bah, sì, funzionano nel momento in cui si cerca di fare un programma che porti a una riduzione della massa grassa in modo selettivo. Non funzionano nel momento in cui si promette di ridurre la massa grassa soltanto in alcune zone. Ecco, questo è un po' un mito da sfatare. Cioè, se io voglio eliminare il grasso soltanto da glutei, cosce e quant'altro, no. Se io voglio ridurre il grasso in generale, esistono programmi molto specifici. Il più efficace in assoluto, secondo le ultime ricerche, è proprio un programma che prevede un'attività intensa della durata di 20-30 secondi, alternata con pause di 40-60 secondi. Perché durante la pausa noi molto semplicemente risintetizziamo le nostre fonti energetiche e le risintetizziamo consumando grassi. Quindi qualsiasi esercitazione sulle macchine, sulle bike, sui treadmill a corpo libero, intensa, di 20-30 secondi, alternata con un recupero e con un riposo di 40 secondi, 60 secondi, ci consente di consumare in modo selettivo i grassi. Quindi questa è una regola che possiamo applicarla in tutti i nostri tipi di allenamento. Sì, anche se andassimo in bicicletta piuttosto che a correre, piuttosto che a nuotare. 20-30 secondi di attività intensa, 40-60 secondi di riposo. Ricordatevi questi numeri, non si sa mai che poi tiriamo fuori il quizzettone proprio su questi. 800-24-0024 ci chiama. Dove andiamo? Allora, possiamo provare a sentire chi era che si era messo in... C'è nessuno. Patrizia, andiamo, c'è Patrizia, Patrizia da Lucca, sì. Buongiorno. Noi siamo sempre per la cavalleria. Buongiorno. Buongiorno Patrizia, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Complimenti per la trasmissione. Grazie Patrizia. No, io soffro di fibromialgia, mi hanno detto. E poi ho dei dolori forti ai ginocchi, alle ginocchia. Quindi Patrizia potrebbe rientrare nel caso, Deborah, che dicevamo, di persone che vogliono sfruttare l'azione riabilitativa dell'attività fisica e quindi per spegnere dei dolori e dolorini, quella sensazione un po' di peso, di ruggine che molte persone avvertono. Dottor Confalonieri, bene, profilo 2 questo di Patrizia, sì, che cosa profilo suggerisce? Profilo 2 con una piccola alternativa, per la fibromialgia è un problema infiammatorio tipico, quindi l'unica terapia reale è una terapia antinfiammatoria mirata. Medica, quindi. Medica, non c'è poco da fare. È un'infiammazione a livello muscolare, quindi è necessaria una terapia farmacologica ad hoc. Per quanto riguarda le problematiche al ginocchio, invece, va benissimo un lavoro isometrico, quindi senza movimento, quindi con una contrazione del muscolo, per esempio per mantenere un peso in posizione o se no con l'elettrostimolazione ad hoc, che consente di potenziare i muscoli della gamba, quindi il quadricipite femorale e gli adduttori, in modo da stabilizzare il ginocchio, da ridurre il carico sul ginocchio e da ridurre questi dolori. Quindi fibromialgia, terapia farmacologica, problematica al ginocchio, esercizio mirato in palestra. Quindi c'è solo la palestra? Sì, in questo per caso. Il ginocchio, beh sì, dopo se la situazione peggiora c'è eventualmente... No, io pensavo di ci potessero essere anche alternative da fare a casa o un'attività fisica da praticare. La bicicletta. Perché non tutte le persone la bicicletta vogliono, per potenziare i muscoli della gamba senza sovraccaricare in modo specifico il ginocchio, però dopo aver fatto un periodo di rafforzamento in palestra della muscolatura della gamba. Andiamo a Andrea che ci chiama da Udine, buongiorno. Sì, salve, un saluto a tutti. Grazie Andrea. Niente, un'informazione, siccome io sono un runner amatore e mi trovo a fare le uscite, ovviamente per mancanza di tempo, o mattina molto presto, tipo anche alle 5, dalle 5 alle 6 la mattina a digiuno, o alle volte anche a corta distanza dal pranzo. Quindi chiedevo se ci sono degli effetti controproducenti, non so, tipo la fatica, eccetera, o è meglio abbandonare la seduta e attendere una giornata con orari più ideali, ecco. Allora, sì. Anche il nostro amico Andrea rientra in uno dei nostri profili perché oggi vogliamo occuparci non solo dei sedentari ma anche di chi è già attivo ma vuole fare meglio, non dico fare di più perché sennò il dottor Confalonieri mi sgrida subito, sì. Fare meglio, migliorare le performance, stare bene nel corpo, raggiungere migliori risultati, fare un investimento a lungo periodo, c'è un problema di tempi, di abbinamento anche di allenamenti, dottor Confalonieri. Domanda bellissima, due risposte molto sintetiche. Innanzitutto non modifichi le sue abitudini di vita, cioè è fondamentale inserire la pratica sportiva in modo compatibile con le proprie esigenze, perché questo garantisce continuità. Quindi continui a correre o al mattino presto o nell'intervallo di mezzogiorno. Se corre al mattino presto, cena ricca, quindi non solo proteine ma anche carboidrati, e prima dell'allenamento un po' di maltodestrine, o la barretta o la crostatina. Se corre a mezzogiorno, colazione ricca, proteine, uova, prosciutto, quant'altro, e carboidrati, crostatina, fette biscottate. La crostatina del dottor Confalonieri non manca mai. Mi piace un sacco questa indicazione. E maltodestrine durante l'allenamento, perché, sarò molto sintetico, mangiare tanto prima garantisce di avere i depositi di zucchero pieni e quindi abbiamo l'energia per fare attività. Le gli zuccheri, quindi le maltodestrine come barretta, come crostatino, quant'altro, subito prima, garantiscono di avere una glicemia costante e quindi di utilizzare i nostri depositi. Adesso ci fermiamo, diamo la linea a Simone Spezia e alla redazione per aggiornamenti. Grazie Simone. Eccoci, grazie. Naturalmente continuiamo ad aggiornarvi sul blitz, sul vero e proprio assedio in corso ai due presunti terroristi, ai due presunti, alle persone che sospettate di aver fatto la strage nella sede del settimanale francese Charlie Hebdo, e ci colleghiamo con il nostro inviato a Parigi, ancora Sergio Nava. Sergio, eccoci, quali sono le ultime? Allora, le ultime, ciao Simone, sono che la GIGN, cioè che il gruppo di intervento della Gendarmeria Nazionale, unità speciale, quindi specializzata in operazioni antiterrorismo, starebbe preparando ormai quello che potrebbe essere l'assalto finale. Non è ancora chiaro se le trattative siano mai partite. Un deputato del centrodestra ha detto che i due fratelli Kouachi hanno affermato di voler morire da martiri, per cui è anche molto difficile poter ipotizzare delle vere e proprie trattative con due persone ormai braccate da due giorni e quindi in condizioni disperate. Altra novità interessante è che i due fratelli Kouachi si conoscevano con l'uomo che ieri ha ucciso una vigilessa a Montrouge, nella sud di Parigi. Ovviamente questo, tutti dicono, attenzione, non implica che si trattasse di due azioni coordinate, però il fatto che i tre si conoscessero chiaramente getta una luce ulteriormente sinistra su quello che sta avvenendo a Parigi e sulle cellule jihadiste che stanno operando nella capitale francese. Grazie Sergio intanto per questi aggiornamenti, ritorneremo a collegarci con te alle 12.30, poi alle 12.45, ovviamente ci fossero aggiornamenti anche prima, e poi ampio spazio in effetto giorno. Nicoletta, a voi. Grazie Simone Spezia, Sergio Nave alla redazione, restate con noi per ulteriori aggiornamenti e noi continuiamo con i consigli del dottor Confalonieri ad occuparci della nostra forma fisica per fare sport, ma anche mentale. Perché? Perché ci sono dei benefici che vanno al di là della tonificazione muscolare e articolare. Una regolare ed equilibrata attività fisica aiuta la memoria, migliora l'umore e ci prepara anche ad affrontare le sfide e i cambiamenti che ogni anno porta con sé. Sentiamo. Qualsiasi sport praticato abitualmente richiede resistenza, determinazione e motivazione. Allenando i muscoli si rafforza anche lo spirito. Fare attività fisica vuol dire porsi sempre dei nuovi obiettivi, prendersi cura del proprio corpo, sentirsi bene. Tutti tocca sana per aumentare la fiducia in se stessi. E allora abbiate fiducia in noi, componete l'800 24 0024, diteci se siete sedentari, se volete così sfrattarvi dal divano, investire un pochino di tempo per mantenervi in forma, per rimettervi in forma, magari se eravate degli sportivi e avete smesso di fare sport, magari perché a tenervi al palo è subentrato un piccolo incidente, un menisco magari un po' usurato, un legamento con qualche problemino, ma chiamateci soprattutto per dirci che cosa volete raggiungere con l'attività fisica, se siete stressati ad esempio, avete bisogno di scaricare tutte queste tensioni, perché il dottor Confalonieri vi farà un profilo, vi cucirà su misura la vostra attività sportiva. Alta Sartoria oggi a Cuore Denari, d'altronde come sempre, no? D'altronde dire così? Non posso che essere d'accordo con te, naturalmente. Chi sono io per contraddirti? Posso intervenire su questo inserto molto sinteticamente? Perché c'è una piccola sottolineatura estremamente importante, sì. Cioè è accezione comune ormai che lo sport faccia bene, perché attraverso l'attività sportiva liberiamo le endorfine, stiamo meglio, migliora il tono dell'umore. Però tra quello che ci piace e quello che ci fa meglio bene, magari c'è un po'. E va bene, però c'è un altro aspetto che secondo me è importante sottolineare. Chi fa sport in modo continuativo acquisisce la capacità di gestire la propria vita attraverso obiettivi raggiungibili, quindi la capacità di programmare il proprio allenamento e il raggiungimento di determinati obiettivi nello sport migliora enormemente anche la capacità di gestire le difficoltà e conseguentemente gli obiettivi nella vita quotidiana. Certo. Questo è un aspetto poco sottolineato ma estremamente importante. Infatti, cioè, come diceva la nostra ricerca, ragionamento, c'è questo modello. Bravissima, io riesco a dire ok, io io ho questo problema, lo risolvo per tappe graduali, che sai che è una parola che mi piace molto, mi pongo questi obiettivi e li raggiungo. Quindi lo sport educa anche ad un ordine mentale e ad una sorta di sistematizzazione degli obiettivi che risulta estremamente importante ed utile anche nella vita quotidiana e lavorativa di ciascuno di noi. Resistenza, determinazione e motivazione servono quindi per fare sport, ma possiamo anche applicare questo modello nell'affrontare, come diceva la ricerca che abbiamo citato, gli impegni e gli obiettivi che ci troviamo di fronte. E abbiamo tanti ascoltatori. Esatto, per esempio, dove vogliamo andare? Voglio andare al sud, io voglio andare al caldo, voglio andare a Messina da Giuseppe, perché magari potrebbe essere questo l'obiettivo di Giuseppe, no? Da sconfiggere, certo, con l'attività sportiva, abbassare il colesterolo, giusto Giuseppe? Sì, buongiorno, buongiorno. Infatti il mio problema è questo, io ho 56 anni, ho i trigliceridi a 70, però il colesterolo intorno mediamente a 260, ecco. Quindi chiedo, ecco, quale. Ed è vero, perché l'attività fisica può aiutare a ridurre il colesterolo e a tenere anche a bada l'ipertensione. Dottor Confalonieri, ne abbiamo parlato tante volte. Ottima, ottima questa domanda. Oggi abbiamo un solo ascoltatore che fa domande molto belle. Sarà un caso. Oppure le selezionate bene voi, ma non vorrei farvi un complimento gratuito. Sono tantissime sono tutte belle. Okay. Bene, andiamo ai consigli per Giuseppe. Allora, Giuseppe, il fatto di avere i trigliceridi assolutamente nella norma, il colesterolo alto, significa che questo colesterolo alto è legato più allo stress o a fattori genetici, ma nel suo caso direi allo stress, che non alle abitudini alimentari. Quindi la pratica sportiva può davvero servire per ridurre il livello di stress e conseguentemente il colesterolo. Quindi nel suo caso direi facciamo sport in modo ragionevole e programmato piuttosto che modificare le abitudini alimentari. E in pratica, dottor Confalonieri, che cosa significa una camminata? Significa mezz'ora al giorno? La regola che avete dato all'inizio della trasmissione, avete parlato di 3 ore e mezza, io mi accontenterei di 3 ore, cioè 3 allenamenti da un'ora nell'arco della settimana sono più che sufficienti, piuttosto che per chi non ha il tempo durante la settimana, mezza giornata durante il weekend dedicata all'attività fisica già fa tantissimo. E poi ci sono anche per cominciare, poi non ci fermiamo, no, non ci sediamo sugli allori. Non basta in realtà, no, per chi si allena intensamente. Dopo io parlo della mia esperienza. Gradualmente aumentare. Bisogna aumentare, sì, perché sennò non lo senti più. Esatto. E ritorna la parola magica, gradualità. 800 24 00 24. È un copyright. Io ho la S, noi possiamo, noi che abbiamo queste difettine di pronuncia, esatto, possiamo. Poi io sono perfetta, perciò. E lo so, vedi che non è bello essere perfetti, no? Qua è una marchigiana, quindi ha coscienza della sua perfezione. Qua, guarda, ecco. Allora, ci sono poi degli escamotage che lei ha suggerito in puntate precedenti per le persone che proprio dicono: senti, io ho bisogno di muoverti, ma non ho tempo, non ho voglia, non mi piace. Non ho i soldi per andare in palestra, ho buttato. Allora, anche nella quotidianità ci sono dei trucchi, ad esempio quando saliamo le scale, i trucchi più banali sono le scale se abitiamo non al piano terra come me. Scusate, lei può venire da me, sono 7 piani. Certo, io le faccio ad esempio. Però devi andare a piedi da Nicoletta, sì, e poi fare le scale. No, allora vedi qua è la tosse adesso. Mi sono emozionato. No. Allora, le scale fatte tutti i giorni sono un allenamento straordinario. Se uno abita al 7° piano, può anche non farle tutte, ma cominciare col primo, poi il secondo, poi il terzo, e via dicendo. Fa bene anche scendere le scale, vero? È vero? Non solamente salire. Meglio salire perché scendere crea dei microtraumi a livello muscolare. Alla fine crea più problemi che benefici. Salire. Dai. La vita è in salita, non è in discesa. Poi, nei propri spostamenti, scegliere anche 100, 150, 200, 300 metri di passo piuttosto che di auto o di mezzo pubblico. Tutti i giorni diventano chilometri alla fine dell'anno. Vedi, questo sai che è difficile entrare in quest'ordine di idee. Conta perché passi. Si dice, beh dai, cosa vuoi che sia la solita cosa che mi dicono, scende alla fermata, ecco, prima. Debo invece ha detto una cosa fondamentale. Io consiglierei a tutti, come buon proposito di inizio d'anno, l'acquisto del contapassi. Nicoletta ce l'ha. Sì, ma abbiamo fatto i nostri ascoltatori su Cuore Denari dei contapassi, ce l'hanno già tutti in tasca. Vi ponete l'obiettivo dei 10.000 passi quotidiani e organizzate la giornata in modo da raggiungerli. Questo è fondamentale. E soprattutto scoprirete 10.000... se questi 10.000 passi vi sembrano tanti, irraggiungibili. Misurando i passi che fate in un giorno, scoprirete che siete abbastanza vicini. Allora, e andiamo... poi ultimo, ultimo, concedimelo. Se avete figli, il gioco con i figli. La lotta del non solo la lotta con quelli piccoli, ma anche il gioco dinamico con quelli un po' più grandi. Giocare con i figli mezz'ora al giorno è attività fisica, oltretutto situazionale. Toglie via la ciccia di torno. Situazionale, andiamo... quindi migliora anche le abilità coordinative. Andiamo a Nicola da Bari. Buongiorno. Vabbè, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, faccio una vita sedentaria e sono a lavoro 8 ore al giorno in piedi. Ho un problema di circolazione di gambe e... E è un altro piccolo problema, è praticamente il dislivello dell'anca di 5 mm. E, si può attribuire questo dislivello dell'anca a questa pesantezza e circolazione delle gambe? Scuote la testa, Nicola, il dottor Confalonieri. No, perché il dislivello dell'anca è genetico, cioè un arto più lungo dell'altro, che è una caratteristica comune alla grande maggioranza della popolazione. Non crea problemi se non è legato all'inattività. Quindi nel suo caso... i consigli sono due. Innanzitutto studiare la postura. Questa è una delle nuove frontiere del benessere, cioè studiare proprio come stiamo seduti quando lavoriamo, perché basta stare seduti in modo più intelligente per ridurre in modo radicale moltissime problematiche, e ormai c'è tantissime persone che si occupano di questo problema. Secondo, anche nel suo caso, io non so qual è la sua situazione lavorativa, però tutte le volte che può, se ha delle conversazioni telefoniche, farle in piedi. Tutte le volte che può, muoversi. Lui già sta molte ore, lui sta tutti seduto. I giorni in piedi. No, no, in piedi ha detto. No, seduto. No, ha detto in va piedi. Va bene, allora facciamone una per in piedi e una va per bene. Seduto, così ce l'ha oggi. Ok, quando sta in piedi, muoversi, studiare la postura e poi quello che si diceva prima, quando va sul lavoro, cercare di incrementare e giorno per giorno il passo e quindi il tempo che passa camminando. Allora leggo, voglio leggere perché io mi riconosco molto nel messaggio di Patricia che ci scrive da Monza. Porto a camminare i miei due cani 30 minuti andate e 30 minuti tutti i giorni a passo da cane, che è un passo abbastanza svelto, aggiungo io, e mi ha cambiato la vita. È vero, a volte basta proprio prendere delle abitudini e poi in qualche modo dopo poco tempo, una settimana, 10 giorni, scopriamo che ci sentiamo proprio meglio e diversi. Sergio, buongiorno, ci chiama da Modena, sei rapido? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io peso 71-72 kg e sono alto 1,68 m e vorrei perdere qualche chilo. Vado in palestra tutti i giorni, faccio una cinquantina di minuti e mi chiedevo se la causa poteva essere che mangio troppa frutta. Perché questi chiletti non vanno giù, nonostante la palestra. Dottor Confalonieri. Boh, intanto vorrei capire perché vuole perdere qualche chilo, perché mi sembra veramente magari magro. Magari li ha localizzati, magari è magro e ha la pancetta. Sì, potrebbe non è la essere. Frutta il caso in ogni modo, cioè la frutta un ha un apporto calorico molto, molto ridotto, almeno alcuni frutti. Diciamo che se lei evita il kiwi, la banana, questi frutti ad elevatissimo apporto calorico... Sì, se mangia 3 kg al giorno, perché... Ma privilegia la mela, l'arancio o la pesca, questi frutti a più ridotto apporto calorico, sicuramente il problema non è la frutta. Magari deve cambiare un po' allenamento. Magari deve il ritmo cambiare allenamento, anche. Esatto, quindi... È chiaro che se ha soltanto la pancetta, la perdita localizzata è molto difficile. Potrebbe seguire il consiglio che avevo dato prima, quindi questi allenamenti intervallati, piuttosto che fare la sua seduta in palestra, poi al termine della seduta fa 15-20 minuti di attività di cardio fitness, quindi alla bike piuttosto che al treadmill, ad intensità moderata come defaticamento, che avviene tutto consumando i grassi, e quindi gli consente di perdere un po' di peso. La trasmissione in podcast posso riascoltarla? Certamente, così rispondiamo ai nostri amici che ci hanno scritto, nuovi amici evidentemente di Cuore Denari, vero, ne abbiamo sempre nuovi. Di nuovi. Ringraziamo il dottor Franco Confalonieri. Grazie a voi, a risentirci prestissimo. Il treadmill, ricordiamolo che è il tapirulan, il tappeto, sì, dove è vero, si corre. È vero, perdonami. Ma lui è un po'... Gli ascoltatori lo sanno, sono certo. Io sono un po' pignolina. Anche tapirulan è francese. Esatto. È tappeto, infatti, il tappeto mobile. Esatto. È spuntato Filippa Oreggi, che ringraziamo e salutiamo, Marco Lombardo, Isotta Scenna. Isotta Scenna. Sì, bella davvero. A lunedì. A lunedì.